villa borghese. Tanta gente, ogni madre ha un figlio ed ogni figlio ha un padre che lo rialza quando cade, quando dorme, fa che di rumore non ce ne sia più. E sul passaporto io c'ho scritto che mio padre è morto, che di madre ce n'è una sola, e la mia è in cielo che vola. Alla mensa tutte le sere c'è la notte da scavalcare, c'è il futuro da ricordare di come si può fare. Quando suona la sirena è qualcuno che ci abbandona. Villa borghese, tanta gente ed ogni madre ha un figlio ed ogni figlio ha un padre che lo rialza quando cade e quando dorme, fa che di rumore non ce ne sia più. E sul passaporto io ci ho scritto che mi chiamo Alberto, di cognome fin da bambino, figlio di nessuno. Ogni corsa è una fatica, la conquista di una mollica.